Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Non ci sono presidi Rambo. I presidi Rambo esistono soltanto al cinema, se ci sono al cinema. E attenzione, che questo è molto importante, non è vero che il preside assume l'amico dell'amico, non è vero che ci sono i licenziamenti dopo 36 mesi, sono assolute falsità. When they draw first blood, that's just a start of it. Rambo, sono Murdoch, felice di sentirti vivo. Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdoch. Sono io che vengo a prenderti. Cos'è che non c'è nella buona scuola? Non si parla, no, nel modo più totale, di ferie per gli studenti. Chiamarle ferie è un po' forte, di giorni di vacanza. Non si parla di vacanza, è uno degli argomenti che più sui miei social network i ragazzi mi hanno detto: tu stai distruggendo i nostri giorni di vacanza. Non, nel buona scuola non si parla di questo. E che cos'è? È l'espressione algebrica, quella che ha detto lei. E ce la vuoi spiegare? Certo che ve la spiego. Allora, più meno meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non me lo meno più. O per lo meno, me lo meno di meno. Ha chiesto 5 minuti d'attenzione. È un video di 18 minuti che a un certo punto diventa più noioso della lezione di latino più vivace che vi potete ricordare della storia al liceo, no? Matteo Renzi, gessetto e lavagna. Certo, magari, non so, la buona scuola o la nuova scuola, magari una lavagna luminosa. No, no, no, gessetto, quello con i gessetti colorati, con le lavagne che si intravedono già anche quadrettate, un po' così. Si è messo lì davanti al video e come dice mio suocero anche lui insegna all'università, si è messo lì e mo' ve spiego. E così, e ha spiegato la buona scuola. Io appunto 2 minuti e 40, poi ho ceduto perché sì, Carmelo Lauricella fa il gesto, sì, più o meno così, mi sono addormentato un po'. Attenzione a addormentarti, che in Corea del Nord ti addormenti, il ministro della difesa, succedono delle cose un po' brutte. Va bene, queste sono sulla colonna sonora di Rambo, non esistono presidi Rambo, ma noi ne parleremo poi alle 8:15 di scuola, Intanto alle 6:34 minuti, queste 24 mattino, saluto Lorenzo Nespoli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Siete tutti svegli? Siete tutti svegli al 349-238-6666? Dai, avete visto la partita? Ma certo che avete visto la partita, anch'io devo dire chapeau alla Juve, bisogna riconoscere. Intanto saluto Vincino, come stai Vincino? Bene. Tutto. Tu sei durato 2 minuti, io 35 secondi. Sì, a vedere quella poi hai ragione tu, quella lavagna col gesto faceva scri, ma era sì, faceva che tu sei uno di quelli che col gesto ti dava fastidio quando è terribile, ma io aspettavo la lavagna quella multimediale, appunto, toccava, si illuminava e faceva, ma dove ci stai portando? Quale passato? Chissà perché lui così attento alla comunicazione scelto la lavagna con i gessetti colorati. È confuso. Siamo in piena crisi in questo momento. Non lo so. Intanto. No, ma perché poi va bene. Aspetta, devi farmi salutare un uomo che sta godendo, un uomo che è felice, un uomo che è sereno, un uomo che è bello lì, pasciuto. Senti, come lo accogliamo? Lo accogliamo così. canzone, con la musichetta giusta, con la musichetta. Ma ti rendi conto che abbiamo fatto? Quando state parlando del video della buona scuola, veramente, ma tutta l'Italia sta là. Ieri è successo, è successo, no, ieri è successo questo. Fai ste cavolo di due ore dicendo forza Juve. Ieri è successo questo, finisce la partita e sento nel condominio, io vivo in un condominio abbastanza popoloso, popolato con gente, un po' così vicino a via Padova, no, a Milano, quindi una roba veramente, bello, no, potete bello capire. Ho sentito iniziare, poi ho sentito uno, merda, Juve, basta. Già, è stata una roba che non lo so, il condominio è l'unica cosa. Oggi c'è il pezzo d'Italia che gode, il pezzo d'Italia che sprofonda nella rosticata più grande della storia. Ecco, io faccio parte, io faccio tema, parte di una delle due mezze. È su. Oggi abbiamo fatto una cosa talmente enorme. Vabbè. Ero lì pronto già a dire chi di rigore ferisce, di rigore ma perisce. Con rigorino pure finto, con rigorino messo ma dire, che finto, calato, ma che finto. Rigore, certo, lo so, tu sei abituato, tu sei abituato che Chiellini fa queste cose e nessuno lo visto. Mettete la chiesa al centro del villaggio. Guardatelo qua, il Cristiano Adinolfi. Il Cristiano Adinolfi, eccolo qua. Tutti i cori del mondo ogni volta andiamo in ogni stadio. Noi siamo a Berlino. Eccolo là. Il Cristiano Massimiliano Allegri. Il Cristiano. Una cosa dedicata alla mia città, a Roma, che lo Juventino di Roma in particolare. A Berlino ci siamo noi e Luis Enrique. Avete presente quell'allenatore che hanno cacciato a calci il culo? Ecco, ci siamo noi e Luis Enrique. Effettivamente ci sono motivi. Ci sono motivi per rosicare, rosicare abbastanza. Luis Enrique ha allenato la Roma, è stato cacciato. Quindi c'è motivo per rosicare a Roma, in questi mamma momenti. Mia, oggi proprio voglio. Oggi comincio al bar, capito? Visto lì assiso. Oggi mi sa che rischi le botte, stai no, attento. No, al cuore della Roma romanista. Stai attento. Il mio quartiere. Vabbè, dai. Qua dobbiamo aprire il Parlamento perché c'è un Mario Adinolfi. È un po' su di giri, Vincino. Tu l'hai vista la partita? È Juventino, Vincino. Ma Vincino tiene al Palermo. No, come non l'hai vista? Non l'ho vista. Ha visto a buona scuola, non ha visto. Ho visto 30 secondi di buona scuola, Ma cosa hai visto? Ma non scusa, ho visto niente. Ma cosa c'era da vedere? O sei uscito a cena con qualcuno? Sera non ho visto niente. Ma che vuol dire niente? Cioè hai letto? No, sì, ho letto, ero stanco, non mi ricordo manco cosa. Ovviamente inizia a arrivare i messaggi. C'è ancora la finale Barça Juve 4-0. Sì, vabbè, no. Volete voi. Io invece devo dire, Marione, tu lo sai l'amore che ho profondo nei confronti della Juve, ma testimone qua se viene a Radio 24, purtroppo sono 3 giorni che vado in giro a dire è come quell'anno di Mourinho l'Inter, si sente che purtroppo è l'anno della Juve. Sono quelle cose che si sentono, no? Cioè so già che Messi vomiterà prima della finale in campo, Neymar fa uno Suarez fa uno scatto e la caviglia aia, così Neymar prende un palo, è l'anno della Juve, così è l'anno della Juve, Morata gol e tutti a casa, e vabbè, è la squadra più ridicola degli ultimi 15 anni che vincerà la Champions League. Morata a rete, Morata fuori dalla Juve, ragazzi. Ma tu ti rendi conto che la pietra scartata dai costruttori è diventata testata? Allora parliamo di scuola. La scuola è molto importante. La scuola. Tutta Italia parla solo di quella scuola che ne frega niente. Vincino, di qualcosa, Vincino, fai qualcosa, intervieni, basta il calcio. Parliamo della Mogherini, dei migranti, dei poveri migranti. Di cosa? Mattarella al Museo Egizio, no? È una cosa a Torino che va là. Allora arriva un messaggio anche chiaro: basta con il calcio, coglione. Io sono d'accordo. d'accordo, mi sento un po' che chiamato bello. In casa. A proposito, sei a 34 punti di distanza, adesso sono di ma Vincino, ma lo senti il cristiano caritatevole ad Adinolfi? Lo senti? Quando mai è stato caritatevole? Non lo so, però. Adinolfi non è mai stato caritatevole, guarda. Dice così, di essere caritatevole, cristiano, no, buono. Non è mai stato. Sono portato, come dice Gesù, portato alla divisione. Vabbè, allora dai, non parliamo di scuola, parliamo di questo. Io ancora oggi, De Luca, io veramente questa cosa... Oddio, De Luca. Smettila! Smettila o ti caccio! Smettila o ti caccio! Gli impresentabili. Infatti io sei la prima trasmissione nazionale che parla, la mattina puoi parlare solo di Juve Real Madrid. Non hai proprio neanche... Vincino, ma gli dici qualcosa tu? Vincino, ma l'hai invitato tu? L'hai invitato no, tu. Io non l'ho invitato, l'hai invitato tu assolutamente, non ne so niente. No, io proprio perché stamattina devo svegliare alle 5:30, 6 presto da voi, per questo non dormire presto, non ho fatto niente. Ecco. E invece, niente. Ma Vincino, no, Vincino, ti confesso una cosa, io l'ho invitato ovviamente nella speranza che la Juve... Infatti, male. Ieri gli abbiamo detto comunque finisca la partita, sapendo già che... sapendo già che Real ne avrebbe fatti 3, ho detto guarda che comunque finisca, però tu ti svegli, però sì tranquillo, mi sveglio. Eccolo là. Con l'olimpica certezza dei grandi. Vabbè, allora basta, voglio farvi sentire De Luca. Vorrei chiedere con molto garbo a Saviano di non confondere la battaglia contro la camorra con l'offesa alla dignità di altre persone che magari la pensano diversamente da lui e che non sono disponibili per la vita che hanno alle spalle ad accettare da lui nessuna lezione sul versante della lotta alla camorra, che sia chiaro, nessuna lezione. Oh Vincino, c'è De Luca, se ne poteva leggere le liste questo qua, però dai, sì, no, soprattutto c'è una cosa che doveva fare, leggersi le liste degli altri, no, l'unica cosa che dovrebbe fare adesso è una dire i nomi e i cognomi perché continua a dire, e anche oggi intervistato al Corriere, più di dire di non votare gli impresentabili nelle mie liste non posso fare. Ma sì che puoi fare, dici i nomi, chi sono questi impresentabili, li stabilisce il Fatto Quotidiano, la Croce Quotidiano di Adinolfi, li stabilisce Saviano, chi li stabilisce, chi sono questi impresentabili, tu li hai capiti Adinolfi chi sono? Ma io tifo De Luca, quindi sono De Luca contro la camorra ha fatto una cosa enorme, cioè fare la battaglia sul tema dei rifiuti a Salerno, che è la città che ha governato, portando Salerno a diventare la città col più alto tasso di raccolta differenziata in Italia, non meglio in Italia, in Italia. E per me quello vuol dire fare la lotta alla camorra, poi il resto sono le chiacchiere. Ho capito le chiacchiere, ma adesso dovrà, ma secondo te è normale che... riconosciamo, non lo so, se ci sono... Ma continua a dire non votate i miei impresentabili, dovrà dire chi sono, se no uno come fa a saperlo? Vabbè, non votate De Luca al limite, se è tanto problematica la questione. No, anche a me però fa simpatia De Luca, scusami. De Luca è proprio bravo, in che senso? Ho capito, è bravo. A Salerno, una città con poca camorra e poca delinquenza, ha fatto questa cosa qua, d'accordo, tanti la anni fa. Era Salerno, fatto io sono di Salerno, ho capito, papà di Salerno. E tu sei di Salerno. Vabbè. Mio papà è di Savona, allora, che vuoi? Savona è pulita ancora. Savona è meglio di Salerno, lascia stare. C'era il papà di Vincino, Palermo arriva con Palermo pure, per cui vabbè, no, perché che te dire? Ma non ho capito, uno che è bravo a governare e deve essere anche bravo a vedere le liste con cui collegarsi, stop, chiuso, quella lista là è piena di deficienti ex camorristi, via, vaffanculo, non l'accetta. E allora ma chi? Cioè non c'è un condannato, cioè capito, di camorristi non c'è uno che ha una condanna definitiva, e però sono diventati impresentabili e lui stesso lo ammette, ma non dice chi sono. Ma hai detto tu stesso, non ci sono condannati definitivi. Ho capito. Di che parliamo? Oh, ma è lui stesso che dice sono impresentabili, lo ammetto, non votateli. Non è che ci siamo inventati la cosa. Cioè, è tutta nata una campagna, per cui ce n'è uno che stava con la destra e adesso sta con De Luca. Vincino, quanti ne conosci in Parlamento che stavano a destra e ora sono a sinistra? Praticamente il 90%. Ecco, 90%, ecco. Non lo so. Infatti questo è un altro guaio di Renzi, no? Del renzismo, questa cosa qua, no? Cioè il guaio del Partito della Nazione è un disastro. Non lo so. Comunque... è il partito dei trasformisti, dei riciclati, dei pretis e tutti questi altri. Non si può fare. Comunque, tu sai oggi Adinolfi come Vincino rappresenta Renzi in prima pagina del Foglio. Ma non è renziano Vincino. No, lo rappresenta come una tartaruga. Un PIL dello 0,3%. Come una tartaruga che dice 0,3%, un balzo in avanti pazzesco. La tartaruga. 0,3 non è poco, 3 per come stavamo capito, dai, ma 0,3 va con le cose alla 0,4. Oh, Adinolfi è più... aumenta Renzi il PIL, dai, è piano. È più renziano di Agnese. Adinolfi qualcosina ha fatto, con il Jobs Act, con il recuperato Jobs Act. Qualcosa. Guarda che ti svelo di migliaia. Ti svelo un segreto. Marione, ti svelo un segreto. Guarda che Renzi tiene la Fiorentina, cioè adesso... ma ha fatto di congratulazione alla Juventus, ha obtorto gol. Ci teniamo quelle. Poi se tiene la Fiorentina è divertentissimo, perché la Fiorentina loro sono rivali nostri, ma non noi non abbiamo rivali. Certo. Voi non avete rivali. Vabbè, comunque, allora il buon De Luca, che dovrebbe fare Vincino secondo te? Oggi il disastro l'ha già fatto. Lui doveva soltanto leggersi le liste di quelli che volevano. Ho capito, ma leggi un nome e un cognome, mica sai la storia di tutto. Vedi, leggi, metti come diceva quello, metti due ragazzini su Google, e cercano e vedono tutti i nomi, com'è? Ma poi là sanno tutto, ma stai scherzando? Ma guarda che sulle liste non è facile. A Palermo so tutto delle liste delle a Palermo sanno tutti. Sai che succede? Sai che succede? Al secolo XIX la danna, via, non le accettiamo. No, lo so, ma il secolo XIX racconta che succede la stessa cosa del Movimento 5 Stelle a Imperia, dove il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Imperia ha detto alle regionali: votate il Movimento, ma non fate nessuna preferenza perché ci sono dei nomi sospetti. Cioè, capito? Il capogruppo del Movimento 5 Stelle di Imperia. E quindi succede, la gente si infila, si intrufola. Vabbè, ma là è chiaro, 5 Stelle dove non c'è nessuno in grado di leggere, lo capisco, no? Ma lui che non c'è nessuno in grado di leggere. Ma sì, insomma, dove legge e scrivere là. Allora, lui che sa leggere e scrivere, e sì, che ha fatto questa storia qua che da tu parli da 10 anni ho capito, uno sui rifiuti, ma ha sbagliato, è una cosa normale. No, andiamo al traffico, su. Massima di Confucio: ogni paese ha il traffico che si merita. Signori, ecco il nostro. 24 mattino. Volevo dire che le prove in valsi sono una grande cavolata. Ciao Milan, a proposito del blocco degli scrutini, sappi che non si è mai fatto, poi esiste una legge sull'autoregolamentazione dello sciopero che lo vieta. Comunque sia, ogni volta che un pubblico impiegato fa uno sciopero è un'interruzione di pubblico servizio. Ieri hanno detto 200.000 nuovi contratti a tempo indeterminato. Ti dico quello che hanno fatto mio figlio: gli hanno fatto il contratto a tempo indeterminato per non pagare contributi, ma sotto banco gli hanno fatto firmare la rescissione del contratto a fine settembre. Quindi, fatta la legge, fatto l'inganno. Renzi, non ti ricordi più il vecchio insegnamento che le sentenze si applicano, non si discutono? Ridacci i soldi. Milan, dato che ti sei stancato di alzarti all'alba, potresti scambiarti con effetto notte, così noi potremmo svegliarci con la voce musicale di Roberta Giordano e addormentarci con la Ninna Nanna cantata da te, il più intonato. Quirinale, quella riformina. Basta. Del nostro voto è l'assassina. Vabbè, ho cantato effettivamente. Forse oggi ricanto ancora. Vabbè, ma che dobbiamo fare? Mario D'Adinolfi, siamo qui. È stato in Parlamento. Tu hai cantato in Parlamento? C'è questo audio perfetto. Recuperiamo l'audio di lui che canta l'inno d'Italia in Parlamento. Guardate che è un indietro. Ma se l'abbiamo mandato in onda mille volte. Interrompere e bloccare la presidenza della Camera. Allora, prima hai detto, Marione, hai detto una parolaccia tu, se non sbaglio, su Luis Enrique. Su Luis Enrique. Su Luis Enrique, perché? Sì. Luis Enrique è il mio mito. Il Papa ha detto che il turpiloquio è da condannare. Ah, ma io sono un peccatore si sta. Che l'educazione è mezza santità. Tu che sei direttore della Croce, adesso che mi cadi. C'è l'anno così. Santo della misericordia, ti ricordo adesso. Ah, tu punti al giubileo. Cioè, il giubileo pulisce tutto. Tranquilli. pure Vincino si può pentire. Grazie, anche se si pente. Vincino, ma il tuo rapporto con la Chiesa, Vincino, com'è? Era veramente cioè, quando entro in una chiesa a guardare qualche capolavoro, qualche cosa, mi faccio il segno della croce. Questo è Cioè, entro in chiesa per vedere un dipinto, io entro in chiesa in generale per vedere dipinti, architetture. Io piacciono moltissimo le chiese, ecco, devo dire. Non sono posti freschi d'estate, anche un centro bene, commerciale, calma, è un posto fresco. Là c'è più casino, c'è più distrazione. Invece le chiese che sono dei centri commerciali antichi. Mannaggia. Ma dille qualcosa di Nolfi. Sta trattando. No, sono contentissimo che ha detto entro e mi faccio il segno della croce. Questa è una cosa che non fa. Io sono di una, mia mamma era molto molto cattolica, mio padre di meno. Comunque voi anche sapete, tu Milan, mi raccomando, entra e fatti il segno. Sì, ma io ho fatto abitudine proprio. Ma io ho fatto, va bene, hai fatto il chierichetto, Milan. Padre Mario, no, però ho fatto i salesiani, quindi. E allora anche tu sei nero. Siamo tutti nella stessa parrocchia. Siamo una vera lobby massonica. Voi sapete che se chiamate ad Inolfi e gli dite di che cosa tratta la croce oggi a pagina 7 negli spettacoli, allora potete chiamarlo al 334 3798 534. Peraltro è facile, insomma, esatto, è un argomento. Maria di Inolfi, sì. Agiccione di merda, devo dire che moltissimi radioascoltatori juventini ieri sera hanno visto, sentito con me di fatto la partita. Ma c'è qualcuno che ti ha chiamato durante la partita? Durante la partita non ho risposto, però hanno scritto su WhatsApp, mandato messaggi, bandiere, immagini, e tutti gli juventini credo che derivano da questa esperienza straordinaria. Ieri erano riuniti in comunità per festeggiare insieme. Qualcuno ha anche twittato: pensa domani a Lino Milan come si diverte. Sì, ma hanno twittato anche a me, ma non capiscono che per me è un divertimento. Tutta la gente che mi dice rosichi, ma guarda che ho altri pensieri per rosicà. Cioè, non è che adesso, ma che cacchio. Me ne frega, voglio, c'ho anche un fratello juventino, mio padre era juventino, dall'alto sarà felice, quindi va bene così. Ma caro Vincino, ti faccio sentire una persona con la quale ti ritrovi d'accordo. Hai fatto la vignetta sul foglio e quindi ti devi assumere le tue responsabilità. Senti chi la pensa come te sulla questione del PIL. È un signore che faceva il comico, aveva i capelli ricci e ora fa il politico. No, è così. Ma che cosa vuol dire? Ma dove analizzate? Cosa analizzate voi? Quali dati analizzate? Lo dice l'Istat, Grillo, non lo diciamo noi. L'Istat dice 40 cose. Devi analizzare un dato, lo devi vedere cosa c'è dietro. Ma siete voi che tenete in piedi queste balle di questo governo? La pensi come Beppe Grillo? No, l'ho fatto sul foglio. Beppe Grillo la prende come un'offesa personale questa cosa qua. Ogni successo di Renzi la prende proprio come questa cosa. Il PIL per lui è una cosa, lo fa impazzire, no? E si mette a picchiare Casalino perché lui c'ha questo cretino accanto che cammina sempre, no, dietro. Se tu lo vedi nelle foto, ieri. Casalino, quello del Grande Fratello, Si è preso dal Grande Fratello Casalino, no? Ecco. E ogni volta c'è la mente a piedi, lui picchia Casalino, è incazzatissimo, adesso la prende con i giornalisti, con tutti, no? Va all'Enel, va dappertutto, no? Eni. Però anche all'Enel è andato, ma non è che sia andato dappertutto, no? Picchia Casalino, fermati qui, che se no sforo, devo salutarvi, Vincino ad Inolfi, alla prossima. Ad Inolfi sei già invitato il giorno dopo la finale di Berlino, eh? Questo è chiaro, è scontato. Fratelli, speriamo bene. Eccolo. L'Italia si è destra. Io le chiedo scusa. Smetta. Voci dal giro. Buongiorno a tutti, ieri primo arrivo in salita al Giro d'Italia. La salita non impossibile, ma comunque impegnativa all'inizio di questo giro, era quella dell'Abetone. Si partiva con l'australiano Clark in maglia rosa. Sentiamo invece com'è finita.

Allora, al di là dei punti, la mia opinione personale è che nella scuola, quando si toccano le cose, tutto sembra intoccabile. Appena si profila una riforma di qualunque tipo, partono gli arroccamenti, partono le barricate. È in assoluto il mondo più conservatore e riformabile. Questo penso io, ma probabilmente sbaglio, non lo so. Intanto saluto Mimmo Pantaleo, che è il segretario generale della CGIL Scuola. Buongiorno Pantaleo, ben ritrovato. A voi. Così come saluto Riccardo Puglisi, che è ricercatore di economia politica a Pavia, anche responsabile economico di Italia Unica. Buongiorno professor Puglisi. Eccoci. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Allora, intanto Pantaleo, partiamo dalle cose concrete. Questo blocco degli scrutini, io l'ho sentito, ho subito pensato che bel modo di stare dalla parte degli studenti. Ci sarà oppure no? La CGIL che fa, aderisce? Ma guardi, intanto io devo dire che ho trovato un po' patetico, diciamo, il messaggio di ieri di Renzi, insomma, diciamo alla fine ha fatto incazzare ancora un po' di più le persone, secondo me. E dice perché? perché non, in realtà, non insegna bene, in non, realtà, non è un buon insegnante. Guardi, innanzitutto in democrazia, come evidente, le opinioni hanno tutta una loro legittimità, però ci dovrebbe essere un contraddittorio, che l'abbiamo già sperimentato con Berlusconi prima, questa idea che io vado in televisione e dico una serie di cose senza avere la possibilità di un'interlocuzione. Vabbè, ma quella è comunicazione, il contraddittorio, c'è stato un incontro sindacati, governo, tutto legittimo, peccato che sono state dette una serie di sciocchezze pure. Vabbè. Ma questa è la mia opinione, l'opinione di Renzi, se permette, diciamo, ha lo stesso valore della mia opinione o di qualsiasi cittadino italiano, certo, mi pare, su questo non ci piove. Sulle questioni di merito, guardi, sulle forme di lotta non mi appassiono molto, non mi sono mai appassionato. Peraltro voglio ricordare che lo sciopero, perché non è il blocco degli scrutini, lo sciopero durante gli scrutini è una forma prevista dalle regole attuali. Sì, il garante per la verità dice che è illegittimo, il blocco. No, guardi, è previsto dalle norme, ovviamente bisogna stare all'interno di quelle norme, valuteremo come stare e soprattutto faremo una grande operazione, cioè discuteremo con le famiglie, con gli studenti e discuteremo con loro come portare avanti la mobilitazione, perché anche in queste ore la mobilitazione non si ferma. Quindi noi siamo tranquilli perché siamo convinti di avere dalla parte nostra un mondo anche composito, poi ovviamente non sono tutti d'accordo con i sindacati, c'è la discussione, però ecco, credo che abbiamo aperto una grande discussione. Però mi faccia capire, adesso valuteremo, ma sugli scrutini cosa farete? Avete già deciso o no? Ma guardi, stiamo discutendo unitariamente cosa fare, naturalmente dipenderà pure dalle risposte che il governo farà. Cioè, non è ma che guardi, a prescindere qualche apertura pare che ci sia stata, ma pare che dopo Renzi abbia detto basta, cioè qualche apertura, per esempio il preside che era da solo, adesso ci sarà adesso il consiglio un po' di merito. Vorrei discutere di merito, dopodiché le aperture vanno bene, però alle aperture poi bisogna far seguire il merito delle questioni, cioè non è che c'è l'apertura è una grande dichiarazione, una buona dichiarazione di responsabilità, poi bisogna discutere al merito. Adesso ci sarà alla Camera il testo, poi si andrà al Senato da oggi, esatto. Dopodiché io penso che, come abbiamo chiesto, che ci sia un confronto di merito la questione va bene, ma questo punto per punto. Però io vorrei da professor Puglisi capire se la mia impostazione è un'opinione personale, Pantaleo ovviamente ha la sua, Renzi ne ha un'altra, Puglisi ne ha un'altra ancora, se davvero considerare la scuola il santuario dell'irriformabilità sia un punto troppo esagerato, Puglisi. Ma direi questo, che ci sono tanti, diciamo che in Italia ci sono tanti settori, tanti diciamo gruppi che non vogliono farsi riformare, quindi la tendenza è generale. Devo dire che sono abbastanza d'accordo con lei sul fatto che ci mettono del bello e del buono dentro la scuola. Ad esempio, io ho trovato assolutamente, poi diciamo, una protesta riguardo a possibili riforme, a mio parere, a parere delle Unica, la riforma della scuola dovrebbe essere anche più incisiva di quella di Renzi, andare molto di più nella direzione della valutazione del merito degli studenti e degli insegnanti, perché in tutte queste discussioni sulla scuola io sento molto parlare di insegnanti, ma sento molto meno parlare di studenti. Dal mio punto di vista, io sono un becero economista liberista, per me la scuola è soprattutto servizio agli studenti. servizio, su una cosa che ha delle caratteristiche specifiche, ovvero non sempre gli studenti capiscono, anzi spesso non capiscono esattamente che insegnarvi quella roba lì, in quel modo lì, è meglio di un altro metodo più pigro. Per esempio c'è stata per esempio questo boicottaggio, tra poco ne parleremo anche con uno studente, rappresentante degli studenti, il boicottaggio degli invalsi, ecco, lei dice mamma mia, cioè, ma che male c'è se si viene fatto un test, ovviamente qualcuno mi dice ma il problema è che i test sono sbagliati, perché non so, il test di matematica è uguale per lo scientifico e per l'istituto tecnico, mentre i programmi sono diversi. Allora la questione è questa: per fare una valutazione ci deve essere un metro comune, c'è il famoso metro, certa lunghezza a Parigi che è sempre uguale. La valutazione, il metro, la misurazione è fatta con un metro comune, ovvero sia si deve essere in grado di confrontare, perché l'obiettivo non è che prendiamo quelli che hanno sbagliato, non è che li buttiamo nel fosso. Esattamente, io sono un pallosissimo oscuro ricercatore di provincia, ieri sera mi sono messo a guardare il rapporto invalsi 2014, che è l'ultimo disponibile, che ha una serie di dati estremamente interessanti per capire come vanno le competenze di italiano e matematica degli studenti nei licei, nei contri professionali, al sud, al nord, al centro, come variano nei vari livelli di istruzione. Ci sono tantissime cose, e soprattutto l'obiettivo finale, per quello che vi dico che la riforma è poco coraggiosa, dovrebbe essere questo: che io devo sapere, andando su internet, andare a vedere qual è la valutazione di ogni scuola. Io voglio sapere per se carità, è Pugliese, buona no, o cattiva. Per a carità, me i sindacalismi, a me i sindacalismi, il apriamo un tavolo, eccetera, mi fanno venire l'itterizia. Lo so, però Pugliese, lei adesso risponde Pantaleo, ma ha toccato un dato. No, la scuola deve essere tutta uguale, perché siccome è pubblica, secondo una vulgata, siccome è pubblica, non si può sapere se una scuola è migliore delle altre, non si può sapere se uno studente è più bravo degli altri. Nota: Milton Friedman, che ha scritto un libro con la voglia che si chiama Liberi di scegliere, parla giustamente dell'idea delle pari opportunità, dell'uguaglianza del punto di partenza, e dice che invece è delirante l'uguaglianza del risultato, perché vorrebbe dire ad esempio questo: che Michael Jordan ha un magnifico talento a giocare a basket, ottimo, io sottoscrivo a mangiare col fritto, tutti dobbiamo dare, questo è il ruolo della scuola pubblica, gli strumenti per apprendere in maniera uguale, ma poi non sono tutti uguali, Pantaleo. Questa è la questione, ed è questo che il mondo della scuola, un certo mondo della scuola, secondo me anche il professor Pugliese, rifiuta di accettare, e cioè che ci sono i più bravi e i meno bravi. Non è che prendiamo i meno bravi e li buttiamo nel fosso di studenti, no, non prendiamo i meno bravi di gli insegnanti e li buttiamo via calci, anche se qualcuno magari lo meriterebbe, magari gli diamo meno soldi e premiamo i migliori, e premiamo i migliori studenti. Che male c'è in questo, Pantaleo? Che male c'è? Ma scusi, ma lei di quale scuola parla? La scuola pubblica. Perché, diciamo, io voglio parlare di cose concrete, perché questi sono, diciamo, ragionamenti di grande, diciamo, spessore prospettico, diciamo. Io voglio parlare della scuola che c'è. Innanzitutto non è vero che questa scuola è riformabile, perché diciamo di riforme ne abbiamo visti tante, dalla Moratti alla Gelmini. No, certo, ma è riformabile in questo clima, cioè barricate, proteste. No, le riforme si sono fatte, sono state riforme che avevano tutto un senso, cioè quello di tagliare risorse alla scuola pubblica, di pensare che bastava introdurre meritocrazia, competizione, che si risolvessero i problemi. In realtà poi alla fine ci siamo accorti che non abbiamo risolto nulla, perché questa storia del merito, della valutazione, è un ragionamento che parte da oggi. È un ragionamento che viene avanti almeno da 20 anni. Infatti, dopodiché, però non è mai stato applicato. Ma non è vero, guardi, questo non è vero. Dopodiché, io vorrei parlare della scuola che c'è, perché io ho l'impressione che non si parte dalla scuola che c'è. È una scuola nella quale manca la carta igienica, manca i gessetti. Ieri ho visto. Guardi, è così, eh. Ma lei lo sa che fino ad oggi. non sono state ancora trasferite alle scuole proposte di autonomia scolastica le risorse per il funzionamento. Lei lo sa questo? Sì. Te lo dico io. Guardi, lei però... lo sa, lei lo sa, a proposito di meritocrazia, che i docenti italiani hanno i salari bloccati dal 2009? Questo sì, e questa è una vergogna. Salari poveri. Ma guardi, no, io voglio parlare di cose concrete. No, ma io, Pantaleo, sono dalla sua parte. Quando io dico che la scuola è riformabile, dico anche che abbiamo i professori poco pagati, dovrebbero essere pagati di più, sempre che vengano prese le capre, perché ci sono. Perché io adesso racconto una cosa personale, tanto mia figlia è già in classe, e mia figlia ha ricevuto una nota dal maestro di italiano nella quale c'è scritto che la bambina non ascolta al maestro. Va bene? Io dovrei avere la possibilità di prendere un maestro che scrive che la mia bambina non ascolta al maestro, a parte rispondergli che non ascolta neanche a papà, avrei voluto rispondergli nella nota, ma prendere un insegnante così, che non ha mai partecipato agli interclassi di tutto l'anno, che non si sa su quale programma stia facendo la scuola, e dire: questo insegnante potrebbe non insegnare più? Non so, pugliesi, o sono troppo cattivo? Voglio però dirle una cosa precisa, perché secondo me stiamo discutendo, si continua a fare una discussione astratta sulla scuola. Io voglio discutere oggi della scuola che c'è oggi, di come migliorare quella scuola, di come investire risorse su quella scuola, e soprattutto voglio difendere la scuola pubblica. Ma anch'io la difendo, io la difendo quella scuola pubblica. Scusate un attimo, Pantaleo, io difendo quella scuola pubblica se metto quell'insegnante, un insegnante che non è capace, nella condizione di non nuocere all'educazione degli studenti, e mettendo uno invece che è bravo, competente, e ce ne sono. Puglisi, avevo chiamato prima Puglisi, ha parlato Pantaleo. Puglisi, sì, io questo gergo, questa idea del fatto che l'unica questione sono le risorse da metterci dentro e non le procedure e l'approccio che è concentrato sugli studenti, e poi l'idea della diversità, perché l'idea della CGIL è questa, che si è vista anche sulle pensioni: l'idea è di tirare su tutti gli stipendi a tutti nella stessa maniera. Questo è il punto. Io questo punto lo aborro, lo trovo terribile, perché questo modo di ragionare non dà nessun incentivo di nessun tipo. Perché invece bisogna pensare al fatto che le persone devono essere premiate per il fatto che fanno di più, e devono essere punite, si può anche dire punite, sì, si può dire sono d'accordo con lei, se fanno poco, soprattutto se fanno male, soprattutto se fanno ma malissimo. Anche perché oltre a nuocere, secondo me l'insegnante è ha un ruolo di pari importanza del medico. Perché cura, se volete, il medico la salute, e l'insegnante cresce ed educa e forma i nostri ragazzi, i nostri figli, insomma, in gran parte. E quindi hanno un ruolo fondamentale. Se voi potete stare con noi, c'è la pubblicità, io non lo so se ci dovete lasciare, se potete stare con noi io vado avanti fino alle 9, state con noi, perché poi ci raggiungeranno un rappresentante degli studenti, sentiremo qualcosa, continuiamo a parlare di scuola tra poco. Allora, con noi è rimasto Riccardo Puglisi, come detto ricercatore di economia politica all'Università di Pavia. Puglisi, sono stato tentato però a rispondere alla nota, non ascolta neanche a papà, mi sono trattenuto. Perché poi dopo sai come succedono le cose, no? Si parte da lì, si litiga, eccetera. Comunque, voglio presentare Alberto Irone, che è il coordinatore nazionale della rete degli studenti medi. Buongiorno Irone, benvenuto, eccoci qua. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Saluto anche un professore, che è Domenico Navarra, che torna ai nostri microfoni. Lui presiede l'associazione Insegnanti in Movimento, ci ha raccontato di come viva a Sciacca, ma insegna ogni giorno a Palermo, facendosi Navarra quanti chilometri ogni giorno? Buongiorno a tutti, e facendo 300 chilometri. Lui tra l'altro racconta e raccoglie, insieme ovviamente all'associazione, tutti coloro, gli insegnanti che hanno la legge 104, quella che permette, giusta, sacrosanta, che permette di assistere a un parente disabile 3 giorni al mese. Solo che i numeri, come ci ha raccontato già una volta, sono un po', come dire, un po' troppi, un po', po' esagerati, un po' esagerati in alcune province soprattutto. Comunque, Irone, lei lo rappresenta gli studenti. Questo boicottaggio per gli Invalsi, che so voi come associazione non avete promosso, cioè voi non avete detto boicottare, però che c'è di male in questi test che valutano gli studenti, come ci ha detto il professor Puglisi? Noi abbiamo una posizione molto critica per diversi motivi. Primo tra tutti, il fatto che la valutazione non debba essere costruita su in questo modo, perché i test per noi sono, a quanto abbiamo studiato, test che non funzionano, test che sono fatti senza una consultazione reale degli studenti, che non partecipano nemmeno alla stesura o non possono dire la loro durante il momento di stesura dei quiz. Sono Perché uno studente dovrebbe partecipare alla consultazione di un test che lo deve valutare? No, perché così si potrebbe costruire un modello di valutazione diverso, perché la valutazione di sistema è un fatto importante nel momento in cui però riesce effettivamente a migliorare la didattica nelle nostre scuole. I test Invalsi non vanno in questa direzione. Cioè, voglio dire, è come se uno deve fare i quiz della patente, giuro, la banalizzo, mi rendo conto della stessa cosa. E uno chiede, insomma, di partecipare un po' alla costruzione del test che deve valutare. Attenzione, però non è il quiz della patente, perché il quiz della patente è un test che poi rilascia un certificato. I test Invalsi servono esattamente all'opposto. Cioè, i test Invalsi servono a misurare lo stato di salute di apprendimento esattamente degli studenti e quindi dell'insegnamento. E che male c'è? Cioè, voglio dire, dell'insegnamento, guardi, infatti la valutazione di sistema e anche il sistema Invalsi è sicuramente positivo, poi però dipende anche da come vengono somministrati questi test, perché i fenomeni di teach to test, i fenomeni per cui gli insegnanti esercitano le proprie classi al fare le proprie Invalsi, o i fenomeni per cui le stesse prove Invalsi vengono valutate dagli insegnanti che le somministrano, falsano la prova. Per questo una delle nostre proposte è quella per cui i test e la somministrazione dei test possa vedere un protagonismo attivo degli studenti. Protagonismo attivo, non so, Puglisi da ricercatore di insegnante. Io insegno all'università, ho insegnato in parecchie università, insegno a Pavia in Bocconi. Come si dice, e capita che gli studenti ti dicano qualcosa su come deve essere, su facciamo qualche rimostranza, benissimo, uno ascolta e cerca di capire il punto e spiegare il punto. Però la questione fondamentale è che sono contento che Irone non sia a favore del boicottaggio, perché il boicottaggio è una roba da tafazzi, non so se se lo ricorda. Cioè, quello che si dà le ammazzate da soli. L'idea è che il test deve essere uguale per tutti, perché deve valutare le differenze, deve essere informativo. Ma infatti è questo il problema, deve permettere di dire: ah, guarda come... Infatti, un test che non evidenzia che uno è più bravo di un altro, a che minchia serve? Lo dico con un francesismo. Questa è la questione, Puglisi, che stiamo discutendo, no? Tutto perché io voglio avere la valutazione di scuole. Poi ci sono tante questioni su cui Irone si è soffermato, che sono sensate, riguardo al modo in cui, per esempio, gli insegnanti affrontano il test, perché la cosa numero uno da valutare, e questo è per esempio nella letteratura sugli Stati Uniti, dove i test ne fanno tanti, è questo: attenzione agli insegnanti che cercano di fare i furbi e fanno copiare le risposte, e in questo modo si punteggi. E quindi ci sono dei metodi. Nel rapporto Invalsi 2014 viene spiegato come si cerca di ovviare a questo problema. Allora, io vi voglio far sentire una cosa. Per carità, sono alcune voci che abbiamo preso da lui, che sono state prese, credo, da Sky, dall'ultima manifestazione della scuola. Per carità, non sono rappresentative di tutti gli studenti, lo dico prima. Ma succede anche questo nelle manifestazioni, tutti le abbiamo fatte, dai. Perché sciopera? Perché Renzi, come tutti sappiamo, vuole privatizzare tutte le scuole e vuole toglierci 2 mesi di vacanza. Non vuole privatizzare, dottore, dove l'ha letto? L'ho sentito in giro. Questo è contro i nostri diritti. Chi è il ministro della scuola? Non lo so, perché non sono di questa scuola. Ma il ministro, non è che c'è un ministro per scuola, il ministro italiano dell'istruzione chi è? Renzi. Guardi, il diritto dello studio dovrebbe essere garantito, evidentemente. Certo. Quanto in che anno? 1945, non mi ricordo, 46, cos'è? No, aspetti, no, non mi ricordo, 29, non lo so. 29? No, c'era la Mussolini allora. Professore! Non mi ricordo. Tutti insieme famo paura! A chi? A chi volete far paura? Al governo! E a Renzi e a quello che stanno a combinare, che comunque noi siamo la generazione che si è beccata più riforme di tutti e comunque non è giusto, perché hanno detto una marea, hanno fatto una marea di stronzate e comunque lo dicono pure i miei prof, che cioè prima l'istruzione italiana era una bomba, adesso è una merda, è quello che vabbè, è un giorno di meno di scuola. Alla fine comunque è una scuola nazionale tutti gli studenti, alla fine noi manifestiamo perché cioè, il governo va male e quindi questo alla fine cioè, è una cosa di tutti quanti, è una cosa un po' del gruppo alla fine. È una cosa del gruppo, dai vabbè, l'ho sentito in giro, vogliono toglierci 2 mesi di vacanze. Non rappresentano tutti gli studenti, ma dopo il traffico ritorniamo con Irone, Navarra e Puglisi. Allora, io vorrei chiedere al professor Domenico Navarra il suo punto di vista, ma non tanto sulla riforma punto per punto, non me lo sciorini punto per punto, ma da professore che vive il mondo della scuola all'interno e ne denuncia anche qualche magagna, soprattutto sulla legge 104. Lei, professore, che dice? Allora, per quanto riguarda la 104, è ovvio che possiamo parlare di buona scuola, cattiva scuola, quello che vogliamo, ma è ovvio che se all'interno delle scuole, degli istituti, ci sono dei delinquenti che utilizzano un sacrosanto diritto per i loro scopi, per scavalcare altri colleghi illecitamente, è ovvio che possiamo parlare quanto vogliamo di buona scuola, ma ovviamente bisognerebbe ripulirla da queste persone che ovviamente non possono essere degli educatori. Dalla sua esperienza è possibile, e se non è possibile, dov'è il problema per cui non si può togliere un professore che fa questo? Non si può togliere perché siamo un paese di garantisti e ovviamente nel momento in cui viene accertato una falsa 104 bisognerebbe prendere un provvedimento amministrativo e quant'altro. E guardi, proprio ieri è stata ad Agrigento, negli ultimi trasferimenti ovviamente sono avvenuti tutti al 100% con 104, e è stato annullato un trasferimento di una insegnante che è indagata nella carriera dell'ingresso. Perché questo, lei l'ha raccontato molto bene l'altra volta, succede questo, chi ha diritto alla 104 ha diritto anche al trasferimento, a tornare, come dire. Soprattutto l'articolo 21, quella personale che è più eclatante, ovviamente quello che noi denunciamo e soprattutto il problema è che questo diritto e queste 104 sono presenti tra quelli che chiedono la mobilità e i numeri alti sono proprio in queste nei trasferimenti, per dimostrare che è uno strumento utilizzato solamente per superare i colleghi onesti. Esatto, non è uno strumento serve, ma è uno strumento che viene dato da medici compiacenti evidentemente e da commissioni compiacenti. A quanto pare ci sono medici indagati che hanno rilasciato previo pagamento delle 104 e poi commissioni dell'INPS, commissioni mediche ragazzi, c'è un giro grosso che ovviamente crea un danno allo Stato, ma a noi ovviamente crea un danno morale, familiare, perché ovviamente crea disagi per chi non può tenere il trasferimento e continua a viaggiare. Ma non c'è dubbio, cioè Puglisi, Navarra, il professor Navarra dice che la buona scuola riparta anche da qui, dai buoni comportamenti, voglio dire. Queste sono le basi, queste è ancora prima di ogni riforma, nel senso se uno potrebbe persino dire che la riforma delle riforme, nel senso che avere un atteggiamento per cui non di illegalità, per cui si sfrutta il sistema e si offre una performance che danneggia gli altri, perché in buona sostanza significa che gli studenti si ritrovano senza l'insegnante e dall'altra parte chi, come sul tema dei trasferimenti, chi avrebbe più diritto di trasferirsi di un altro viene superato nelle graduatorie. Quindi questo non si può dire altro, e l'unica cosa è no buonismo. Cioè uno dei pericoli degli italiani è il mammonismo e il buonismo, cioè il perdonismo su queste cose. Vabbè, ma lì ci sono delle inchieste penali, quindi dovrebbe essere in teoria tutto a posto, visto che c'è un'inchiesta penale. Allora, Alberto Irone, come detto, è il coordinatore nazionale della rete degli studenti medi. Li ha sentiti anche lei, Irone? Io l'ho premesso, non sono tutti rappresentativi. Abbiamo preso, ovviamente, se vuole, il peggio del peggio, ecco, li ha sentiti anche lei, gli studenti in manifestazione. Cioè, la sensazione è che molti non sappiano neanche quali siano i contenuti di questa riforma tra gli studenti, ma anche tra gli insegnanti, e però si protesta. Irone. Ma guarda, secondo me invece molti hanno capito effettivamente che cosa c'è di negativo dentro la buona scuola E mi permetto solo di dire una cosa su questo: dentro la buona scuola non ci siamo noi, non ci sono le rivendicazioni che abbiamo portato nelle piazze, non c'è quanto chiesto dalle rappresentanze studentesche all'interno degli organi deputati a farlo, come il forum, le consulte, non c'è tutta una serie di idee, di pratiche, di costruzioni che gli studenti volevano. Me ne dica una, quella che voi volevate di più e che non è mai neanche stata presa in considerazione, una che vorreste. La riforma dei cicli, per esempio. La riforma dei cicli scolastici, chiesta da tutte le associazioni studentesche che fanno parte del forum. Cioè, come la vorreste voi? Come la vorreste? Noi vorremmo un biennio unitario, fortemente legato al percorso delle scuole medie, che è strutturato per macro aree, aiuti l'orientamento in entrata e aiuti la crescita di competenze più strutturate dentro gli studenti i primi due anni, e poi un triennio specializzante in cui una persona, uno studente in maniera più matura rispetto all'uscita dalla scuola media, cioè, due anni per capire cosa scegliere e poi tre anni per specializzarsi, possa decidere per specializzarsi, esattamente per decidere che tipo di percorso intraprendere. Proposta, e guardi, la buona scuola si fa così, cioè non è impensabile costruire un provvedimento che faccia dei ritocchini senza invece mettere le mani dal punto di vista pedagogico ed educativo. Beh, ritocchini, qui Renzi invece viene accusato di fare dei ritocconi. Vi chiedo una cosa in chiusura: l'idea del preside che sceglie, magari coadiuvato da un consiglio d'istituto, chi sono gli insegnanti più meritevoli, le piacciono? Secondo noi no, perché no. Non va nella direzione per cui si affrontano quelli che sono i reali problemi, cioè lo scadimento dell'offerta didattica. Si rischiano di creare scuole di serie A e scuole di serie B, si rischia di ledere la libertà di insegnamento e apprendimento, è un'altra serie di pericoli. Ledere oppure premiare il migliore? Lo chiedo anche a Navarra, professore. Navarra, ha timore di questo sceriffo o Rambo preside? Ho timore, perché intanto parto dal presupposto: chi sceglie i presidi? Da cosa viene scelto e com'è il preside, non sono più uguali, quindi dipende sempre dal singolo, dalla persona che andrà a valutare gli insegnanti, che a mio parere non può avvenire, perché valutarlo in base a che cosa? A dei corsi di aggiornamento fatti con pagamenti solo perché ha la disponibilità economica per fare dei corsi di aggiornamento online, o sulla didattica? Ma come si fa a valutare un insegnante sulla didattica se non si sa... fondamentalmente le dinamiche di una classe le conosce solo l'insegnante. Non può un preside andare a chiedere noi abbiamo degli standard da raggiungere, abbiamo la programmazione ministeriale, ma tutto quello che avviene all'interno di una classe la conosce solo l'insegnante. No, queste sono le critiche. Guardi, mi devo fermare qui, ma tanto sulla scuola torneremo. Ringrazio davvero tutti voi che avete partecipato, tutti gli ascoltatori, e ci sentiamo domattina 6:30 puntuali. Io volevo proprio assentarmi oggi, 24 mattino.